in primo piano. Buongiorno a tutti. Sui giornali di oggi si dà molto risalto alle tensioni e ai disordini a Torino in concomitanza con il G8 dei rettori, ma c'è anche la polemica dell'ONU contro l'Italia a causa dei respingimenti dei clandestini. Ad esempio, La Repubblica titola: immigrati, l'ONU attacca, Maroni contro la russa, Occhiello, le Nazioni Unite, dall'Italia critiche inaccettabili, il ministro dell'interno vola in Libia. E poi l'altro tema che campeggia sui quotidiani è il nuovo strappo sulla laicità del presidente della Camera Gianfranco Fini. Ma cominciamo appunto dal tema torinese. Ecco, ad esempio, il Messaggero apre: università, scontri al G8, tensioni e disordini a Torino, un centinaio di studenti attacca, la polizia carica, vertice dei rettori assediato, arresti e feriti, paura per il corteo di oggi. E il richiamo di prima spiega: è cominciato tra tensioni e scontri il G8 dell'università, che riunisce a Torino 41 rettori provenienti da tutto il mondo, 3 feriti, 2 ragazzi e un poliziotto, e altrettanti manifestanti fermati e poi rilasciati. È il bilancio delle proteste della mattina, che si sono concluse con le cariche della polizia. Ecco, a questo proposito vi vorrei leggere il fondo di Giovanni Sabatucci, Il rischio che l'Italia non si può permettere, crisi ed estremismi. Leggiamo. Sabato a Torino, durante un comizio della FIOM, un leader sindacale nazionale, noto fra l'altro per la sua intransigenza negoziale, è stato letteralmente tirato giù dal palco da una decina di energumeni appartenenti all'area estrema del sindacalismo autonomo. Ieri, ancora a Torino, qualche centinaio di studenti, italiani e stranieri, radunatisi per protestare contro un incontro internazionale fra i rettori, si è reso protagonista di qualche scaramuccia con la polizia e di violenze assortite nel centro cittadino. Due episodi che devono far riflettere, anche se in realtà hanno poco in comune, a parte l'esiguità dei gruppi protestatari e a parte la coincidenza geografica. Torino è stata a lungo la città guida del movimento operaio nazionale, dal biennio rosso 1919-1920 agli scioperi del 43, dai fatti di Piazza Statuto del 61 all'autunno caldo del 69, ed è ancora, nonostante tutto, la capitale operaia d'Italia. Occorre dunque distinguere la protesta studentesca, nella fattispecie mescolata con quella no global, pur non mancando di motivazioni reali, Italia all'università, l'incertezza sul futuro occupazionale, ha un carattere soprattutto ideologico dimostrativo, quasi fine a se stesso, e per lo più si esaurisce in fiammate più o meno violente che traggono alimento dalla stessa dimensione pubblica dell'evento oggetto della contestazione. Quanto più questo è capace di attrarre l'attenzione dei media, tanto più ampia sarà l'eco della protesta. Il disagio operaio, prosegue Sabatucci, è altra cosa e più seria, a prescindere dalle forme che assume e dalle sue sempre possibili manifestazioni degenerative. Lo sarebbe, anzi, anche in assenza di tali manifestazioni. Manifestazioni che tendono ad assumere un carattere estremo non solo in funzione della gravità della crisi, ma anche come risultante dello scarto che la crisi determina fra gli spazi di azione della leadership sindacale e i malumori della base o di una parte di essa. Ecco, fin qui Giovanni Sabatucci sul Messaggero. Anche il giornale apre su questo tema: violenza in piazza, chi soffia sul fuoco. E il sommario dice: nuove BR anarchici e black bloc, un'unica regia dietro gli scontri di ieri a Torino e l'assalto a Rinaldini. E sul prossimo vertice del G8 in luglio all'Aquila, gli ultimi rapporti dell'antiterrorismo rivelano che puntini puntini. Insomma, un titolo molto preoccupato, al quale viene abbinata un'intervista che troviamo a pagina 5 a Francesco Cossiga, intitolata "La sinistra non c'è più, ora rischiamo". L'ex presidente della Repubblica era stato il primo a mettere in guardia su una stagione calda nelle piazze, adesso lancia una sfida, provocazione al segretario del PD e dice: è meglio che ti ricolleghi presto con gli extraparlamentari. L'intervista è di Roberto Scafuri e viene riassunta così nel sommario. Il presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga lancia l'allarme sul rischio terrorismo, osserva che la DC è ancora la protagonista della scena politica italiana e intravede il ritorno di Walter Veltroni a capo di una sinistra che non riesce più a rappresentare i lavoratori. E questo era il giornale. Ecco, veniamo invece all'altro tema al quale vi avevo accennato, quello della nuova esternazione del presidente della Camera Gianfranco Fini. Sulla stampa, la stampa dà appunto il palchettone alla questione degli scontri di Torino e invece l'articolo centrale appunto alla questione Fini, la fede fuori dalle camere è la sua affermazione, Occhiello in palazzo nel PDL, Lupi siamo stupiti, si spaccano i cattolici del PD, l'UDC indegno discriminare i credenti. Strappo di Fini, la Chiesa insorge. Immigrati, Maroni critica la Russia. Il sommario praticamente riassume anche altri temi. E appunto su Fini, Fabio Martini fa un retroscena che appunto ricostruisce un pochino la serie delle sue recenti prese di posizione, dal post-fascismo alla conversione laica, Gianfranco e la lunga marcia per cambiare la destra. Vi leggo. Anche l'ultimo strappo, quello da Santa Romana Chiesa, il presidente della Camera lo ha consumato senza perifrasi. Il Parlamento, ha detto Fini, non deve fare leggi orientate da precetti di tipo religioso. Concetto della tradizione laica e anche di grandi leader cattolici come Alcide De Gasperi, ma che non aveva mai fatto breccia così esplicitamente nella destra e nel centrodestra della Seconda Repubblica. È l'ultima conversione di Gianfranco Fini, il personaggio della politica italiana che più è cambiato nel corso degli ultimi mesi. È come se a 56 anni, dopo una giovinezza e una maturità vissuti in un milieu post-fascista, Fini avesse deciso di rifarsi una vita politica. La sequenza delle sue esternazioni spiazzanti è troppo lunga oramai per lasciar pensare ad un rosario di casualità. Sui medici spia ha fatto sapere che non era d'accordo. E dal governo gli hanno dato ragione. I presidi autorizzati a chiedere il permesso di soggiorno ai padri? Il presidente non gradiva e i signori del governo hanno cancellato. Il sindaco di Roma voleva intitolare una strada a Giorgio Almirante? Ecco Fini ricordare la stagione repubblichina del leader missino. Qualcuno torna a dire che il fascismo ha fatto anche qualcosa di buono? Ecco Fini sciogliersi nell'apologia dell'antifascismo. Tra i suoi ex camerati si fanno ancora battute da bar sulle checche? Ecco il presidente della Camera ricevere le associazioni gay nel palazzo. E tutte le sue esternazioni, anche quelle di minor impatto mediatico, oramai sono venate di femminismo, multiculturalismo, antirazzismo, spirito laico e energica difesa delle ragioni di Israele. Nella tradizione della destra italiana c'era quel Dio, patria e famiglia che fece convergere l'MSI di Almirante con la DC di Fanfani e Paolo VI nella battaglia rovinosamente perduta per cancellare il divorzio in Italia. Un istituto che era diventato legge grazie ad un Parlamento che, come dice il Fini di oggi, non si era lasciato orientare da precetti di ordine religioso. Una conversione duratura? Si chiede Fabio Martini. Chi lo frequenta nei giorni di festa racconta che una delle radici del nuovo Fini sia in una rinnovata dimensione psicologica. La nuova compagna, la nuova figlia, persino il frequentare coppie più giovani con problemi e mentalità diverse, come racconta uno dei pochi amici anche nel tempo libero, Italo Bocchino. Una scossa interiore. Ma c'è anche qualcos'altro. Sdoganato da Berlusconi nel 93, per 15 anni Fini non ha mai trovato una dimensione stabile. Aveva accarezzato la suggestione dell'indipendenza, ma l'elefantino con Mario Segni si era sgonfiato alla prima curva. Aveva cercato la via della successione come delfino prediletto del cavaliere, ma gli era andata male. Anche il partito non era più quello di una volta, anche per via delle maldicenze propalate in un caffè romano dagli incauti colonnelli che lo davano per finito. Paradossalmente, ma fino ad un certo punto, Fini si è sentito più libero, proprio quando si è liberato del suo partito. Dal 13 aprile 2008, col trionfo del PD, del PDL berlusconiano, Fini si è affrancato, ha iniziato a produrre quella raffica di esternazioni a tutto campo che ancora non si sa dove finiranno. Ecco, mi devo interrompere, vi cedo la linea alla viabilità. In primo piano. Eccoci qua di nuovo, torniamo alla lettura delle notizie e dei commenti di oggi. In tema di economia vi segnalo l'editoriale di Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera, intitolato L'ottimismo un po' eccessivo, sottinteso del governo, e che peraltro si potrebbe anche intitolare Se non ora quando, come così parafrasando il titolo di un bellissimo libro. Scrive Giavazzi: il governo ripete da mesi che la crisi è nata negli Stati Uniti e lì deve essere risolta. Non ne usciremo finché gli Stati Uniti non riprenderanno a crescere e le loro banche a funzionare. Nel frattempo nulla si può fare. Questo, dice Giavazzi, è vero solo in parte. Dall'inizio della crisi l'istituzione che ha svolto con maggior successo un ruolo fondamentale è stato il Fondo Monetario Internazionale. I prestiti che ha concesso ai paesi emergenti hanno circoscritto la crisi. Se il fondo si fosse limitato ad attendere le risoluzioni di Washington, le economie dei paesi baltici, di Ungheria, Polonia e Turchia sarebbero crollate. E prosegue. Gli interventi che il governo ha messo in atto per fronteggiare la crisi sono palliativi costosi e insufficienti. Nonostante l'estensione degli ammortizzatori, in caso di licenziamento circa il 10% dei lavoratori del settore privato non riceverebbe alcun sussidio e una quota analoga un sussidio di poche centinaia di euro al mese. Il ministro Sacconi dice che una riforma organica degli ammortizzatori sociali dovrà essere rinviata a tempi migliori. Questo significa che egli pensa che una riforma prima o poi dovrà fatta. Quale momento migliore? Non è questa l'occasione, dice Giavazzi, per offrire al sindacato uno scambio tra un sistema moderno di sussidi di disoccupazione e una riscrittura da zero dello statuto dei lavoratori? Non è forse questo il momento di alzare l'età pensionabile e così accelerare la transizione al metodo contributivo? Destinando i risparmi al finanziamento di un nuovo sistema di sussidi? Di fronte all'offerta di un sistema moderno di indennità di disoccupazione, si pensa davvero che il sindacato si opporrebbe all'innalzamento dell'età pensionistica o alla riscrittura dello statuto? Ecco, quindi l'economista sollecita il governo ad agire. E poi conclude: nel primo anno del suo terzo governo Berlusconi ha ripetuto l'errore che commise nel 2001. Allora, con la scusa dell'11 settembre, Giulio Tremonti lo convinse che non si potevano tagliare le tasse. Il risultato fu il lievitare della spesa e di tagliare le tasse nessuno parlò più. Oggi come allora, attendere gli Stati Uniti è solo un pretesto. La realtà, conclude Giavazzi, è che mancano il coraggio e una visione che vada al di là del giorno per giorno. Dunque, un editoriale abbastanza critico. Sempre in tema di economia, segnalo l'apertura del Sole 24 Ore, banche, soglia critica al 10%, occhiello, Banca Italia applica la normativa europea, raddoppia il tetto oltre il quale serve l'ok all'acquisto. Sommario, Consob semplifica l'offerta pubblica d'acquisto sui bond, via libera alla vigilanza europea. vi leggo l'articolo su questo stesso tema di Francesco Manacorda sulla Stampa, intitolato L'ok di Banca d'Italia a chi acquista oltre il 10% di una banca. Scrive Manacorda: se e quando ripartiranno i giochi nel mondo bancario, i soci forti che entreranno nel capitale avranno più libertà di movimento prima di incappare nell'obbligo di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia. Fino ad ora, infatti, l'assenso preventivo di Banca Italia era necessario non appena si superasse il 5% del capitale o dei diritti di voto. Adesso, invece, grazie a una direttiva europea, il limite oltre il quale bisognerà ottenere l'autorizzazione diventa quello del 10%, comune a livello dell'Unione Europea. Lo chiarisce una circolare datata 12 maggio firmata dal governatore Mario Draghi, nella quale si spiega che la direttiva europea del 2007, anche se non ancora recepita nella legislazione italiana, ha diretta efficacia nell'ordinamento italiano, anche perché reca disposizioni di dettaglio chiare e precise nella determinazione dei diritti e degli obblighi in capo ai soggetti che ne sono destinatari. La conseguenza è quindi che cade il primo comma dell'articolo 19 del testo unico bancario, che prevedeva appunto l'autorizzazione della Banca d'Italia oltre la soglia del 5%. Un'altra notizia altrettanto importante, sempre appunto segnalata dal 24 ore a pagina 3, è quella che riguarda il piano di Bruxelles per la vigilanza europea, non c'è solo la BCE. E vi segnalo a questo riguardo l'articolo di Enrico Brivio e Beda Romano. Infine, sempre sul 24 ore, molto interessante è il fogliettone intitolato Con il copia e incolla siamo tutti premi Pulitzer, riferito al caso della grande firma del New York Times che è stata pizzicata a copiare da internet. Vi ringrazio molto, ci sentiamo domattina alle 7:30.